questo libro è il risultato di una lunghissima rimozione, durata quasi mezzo secolo, finché non ho deciso di metterla nel computer e provare a raccontarla. È una piccola storia dentro una storia più grande. La piccola storia è una provocazione costruita dai servizi segreti, che allora si diceva deviati, che io purtroppo non ne ho mai conosciuti di non deviati, almeno negli anni 70. Una provocazione ai danni della sinistra, coinvolti 31, soprattutto studenti universitari, tutti di sinistra, un arsenale di armi scoperto miracolosamente, un foglio con tutti gli obiettivi di una presunta Brigata Rossa e un altro foglio con tutti i nomi dei presunti componenti della Brigata Rossa, come se i presunti terroristi avessero voluto aiutare gli inquirenti nel farsi mettere le manette. Questo avviene sotto una città universitaria, quella di Camerino, è il 72, ma è quasi come se fosse il giorno dopo Piazza Fontana. Vengono fuori gli stessi nomi, fuori gli stessi personaggi del SID, vengono fuori i fascisti che per tutto il decennio hanno insanguinato il nostro paese. Svolte di Fiungo è una piccola frazione, una piccola località nella piana che precede Camerino in provincia di Macerata, nelle Marche. Di tutto ciò al momento rimane solo un piccolo casolare mezzo diroccato rispetto a questa storia, però a quel tempo la storia arrivò sui giornali, fortunatamente con i tempi della giustizia italiana e grazie a un magistrato di Ancona le cose finirono in modo positivo, nel senso che tutti gli accusati furono scagionati. Sì, è così, non è stato condannato nessuno perché è stato costruito davvero, è stato trovato e costruito dagli stessi che l'hanno trovato, che però non sono andati in galera. Qualcuno è andato in Sudafrica, qualcun altro è morto, qualcun altro è stato assolto per mancanza di prove, può passare per lo stesso reato due volte la stessa persona. Fatto sta che tutti sanno come sono andate le cose, ma non c'è una verità giudiziaria e questo fa male. Questa è una delle ragioni per cui ho impiegato tanto tempo prima di rimettere le mani su questa storia, che mi è costata, come dire, lacrime e sangue, nonché anche per latitanza. Una storia che ti ha ferito nel profondo, sappiamo gli anni di latitanza, il trasferimento a Torino, la militanza politica nel Manifesto, erano gli anni del SID, il famoso servizio segreto che poi negli anni 70 venne smantellato e suddiviso tra militare e civile. Esattamente, i protagonisti di questa storia sono tutti i personaggi più importanti del SID, partire da Miceli, Maletti, seguitando con la Bruna e andando ancora avanti con Dovidio. Questo erano i servizi segreti. Gli intrecci con la vicenda di Piazza Fontana passano attraverso le stesse persone. Faccio due esempi, uno che riguarda Bologna. Insieme alle armi sono state trovate 600 carte d'identità in bianco rubate a Roma. Nell'80, la strage dei fascisti, in qualche modo coinvolti, poi condannati insieme agli altri. Oppure c'erano dei timer in questo arsenale ed erano lo stesso identico tipo di timer usati per gli attentati ai treni che dalle fabbriche del nord arrivavano a Reggio Calabria durante la rivolta dei Boia Chimolla. E gli intrecci sono tantissimi, ce ne sono con la strage in Piazza della Loggia, cioè fanno parte di una strategia, quella di destabilizzare il paese, di imporre una svolta a destra, e quel che è successo a Camerino, a svolte di Fiunco, era il tentativo di chiudere una storia di lotte studentesche, peraltro legate alle lotte operaie nelle fabbriche della Bassa, e cioè di Matelica, la Lebore, la Antonio Merloni, sempre, come dire, i mandanti stanno nei servizi e gli esecutori sono fascisti, più o meno organizzati, più organizzati che non meno peraltro, e molto legati tra di loro. Alcuni di questi hanno persino fatto carriera, qualcuno si è messo in lavatrice come i soldi riciclati, e sono stati riciclati, sono andati avanti. I responsabili materiali a Camerino della costruzione dell'arsenale, che sono Dovidio, il capitano Dovidio, e il capitano Labruna, sono diventati l'uno colonnello e l'altro generale.